Qua all'ospedale, al cimitero di Bolzano, nella parte sconsacrata, nella parte dei comunisti e degli anarchici, c'era una bella lapide scritto: qui giace Teseo Rossi, lottò tutta la vita per la patria del socialismo. Veniva da Pola, è venuto qua negli anni 20, ed era un personaggio interessante perché dopo il 25 luglio del 43, il giornale della provincia di Bolzano perde immediatamente il sottotitolo quotidiano della Federazione Fascista di Bolzano, perde immediatamente il sottotitolo, e pochi giorni dopo c'è un intervento di Teseo Rossi che pubblicamente, nell'editoriale, dice: dobbiamo porci il problema noi italiani di se stare e come stare a Bolzano senza la protezione dello Stato fascista. Insomma, no? Cioè, ci vogliamo stare, dobbiamo andare via, dobbiamo lottare per l'autonomia insieme sui tirolesi. Ecco, c'è subito una questione di questo tipo. Poi chiaramente non arriva la risposta perché arrivano prima i carri armati dell'8 settembre. Però non a caso lui che veniva da Pola aveva questo tipo di problematica. Insomma, no? Non a caso anche le posizioni più interessanti, no, sul rapporto fra patria e socialismo sono proprio a Trento e a Trieste, perché pur facendo parte geograficamente dell'Italia, vivevano in prima persona fino al 1918 il problema appunto del rapporto fra minoranze. Ecco, cioè, pensiamo alle elaborazioni dell'austromarxismo che sono molto interessanti da questo punto di vista. Non a caso, appunto, anche dopo il 1945, anche fra gli italiani di Bolzano, un po' in tutti i partiti c'è una diversa cultura politica rispetto all'autonomia fra e gli italiani di origine trentina e gli italiani di origine delle vecchie province, come si diceva all'epoca, no? Cioè i trentini, a prescindere dalla collocazione politica, avevano un rapporto con l'autonomia molto più naturale, disinvolto, faceva parte della loro cultura politica, mentre gli italiani delle vecchie province si sentivano lo Staatsvolk in qualche modo, no? E poi sono stati fatti anche sentire in qualche modo così, per cui si sentivano magari più garantiti dallo Stato centrale, centralista, molto lontano, piuttosto che da un potere politico locale, del quale però sarebbero stati svantaggiati dal punto di vista dei rapporti di forza, no? Ecco. E niente, per parlare di queste questioni, appunto, del rapporto poi fra resistenza e questioni nazionali, nella zona di operazione delle Prealpi, do qui la parola a Fulvio Salimbeni, grazie. Grazie. Chi ha parlato prima di me ha già offerto alcuni spunti interessanti che permettono di collegare il mio intervento. Nella relazione di Marco Borghi si è parlato della necessità di distinguere da territorio a realtà a realtà. E questo non è mai così vero come nel caso della mia regione, la Venezia Giulia, che si presenta veramente come un coacervo e un concentrato di contraddizioni e di complessità. È un termine, questo di complessità, che ad esempio ricorre con altissima frequenza in un libro uscito proprio in occasione del primo giorno del ricordo, il 10 febbraio di quest'anno, dell'amico e collega Raul Pupo, Il lungo esilio, dedicato a persecuzioni, foibe, esodi dall'Istria e anche da Fiume e dalla Dalmazia. E non è un caso che si sia parlato di Pola, di questo avvocato trasferitosi dall'Istria in Trentino, di austromarxismo e di problemi anche di autonomie in quelle che dopo la Prima Guerra Mondiale vengono chiamate le nuove province. Ed è da qui che vorrei velocemente, molto sinteticamente partire. Ricordando che nel momento in cui si conclude la prima guerra mondiale con l'annessione delle province cosiddette erredente all'Italia, si pone anche immediatamente subito il problema della convivenza tra le diverse etnie in queste regioni. Lascio da parte il caso del Trentino Alto Adige. Mi soffermo in particolare su quello che fino al novembre del 18 era il litorale austriaco, che da quel momento diventerà, utilizzando il termine che era stato coniato nel 1863 da un grande patriota ebreo goriziano, e uno dei fondatori della linguistica moderna, grazie a Dio, Isaia Ascoli, Venezia Giulia. Proprio in questi anni, tra la fine della guerra, l'avvento al potere del fascismo, un grande intellettuale esponente del mondo liberal nazionale giuliano, Francesco Salata, che era stato consulente del governo italiano per le terre liberate durante il conflitto e che poi sarebbe stato anche consulente di Giolitti nel suo ultimo governo, fonda una rivista mensile che dura poco più di un anno, poi l'avvento al potere del fascismo la fa concludere, intitolato Le nuove province, in cui, avendo ben presente l'esperienza dell'organizzazione interna dell'impero asburgico, Salata si faceva banditore di un programma di riorganizzazione dello Stato italiano sulla base del decentramento e delle autonomie, richiamandosi proprio al precedente austriaco, sottolineando la specificità e particolarità di queste regioni, avvertendo che un centralismo come quello che aveva avuto fino ad allora lo Stato italiano sarebbe stato catastrofico per queste regioni, e in particolare sottolineando la necessità di rispettare i diritti delle minoranze che sarebbero entrate a far parte del Regno d'Italia, quella tedesca e quella slovena e croata nella Venezia Giulia, altrimenti si sarebbe corso il rischio che ne sarebbe conseguito un irredentismo inverso e parallelo a quello degli italiani contro l'Austria-Ungheria. Inoltre teniamo presente che c'erano anche delle situazioni specifiche particolari, quella di Fiume, che aveva uno statuto del tutto particolare nell'impero, apparteneva al regno di Santo Stefano, quindi alla corona ungherese, ma era un corpus annexum separatum, quindi dotato di forte autonomia e che, a parte l'esperienza poi d'annunziana, aveva vissuto una brevissima stagione di Stato libero, c'era stato un forte partito autonomista, quello cosiddetto zanelliano, dal nome del suo fondatore, animatore e leader Zanella, che si sarebbe fatto sentire anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non è un caso che proprio in queste regioni c'era stato anche un socialista come Lajos Domokos, di cui si è parlato 2 anni fa a Riva in occasione del centenario della morte, che poneva anche lui i problemi di autonomia e di federalismo all'interno dell'impero e che fino alla conclusione quasi dell'impero c'era stato un partito, quello austro-marxista, che vedeva proprio come chiave di volta per salvare l'impero la sua riorganizzazione su base federale, Stati Uniti sostanzialmente dell'Europa centrale, che era una tesi che per esempio aveva trovato consenso e attenzione da parte di quei giovani intellettuali giuliani, noti come il gruppo dei giuliani vociani, cioè i due Stuparic, Slata per alcuni altri, convinti fino almeno al 13 che l'impero potesse sopravvivere riorganizzandosi su questa base anche la comunità italiana avrebbe potuto vedere garantite le proprie specificità, i propri diritti nazionali, quindi avrebbe potuto benissimo continuare a permanere in seno all'impero. Solo l'opposizione della classe di governo a Vienna li fa spostare su posizioni decisamente irredentiste e poi interventiste. E sono idee e tesi queste che poi verranno anche riprese durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel momento della Resistenza. E se vogliamo capire il dibattito sulle questioni nazionali, i contrasti e le lacerazioni che ci sono state nella Resistenza al confine orientale d'Italia, bisogna ripercorrere molto rapidamente quello che è accaduto nel ventennio precedente. Bisognerebbe in realtà partire da più lontano, non è un caso che la commissione mista storico-culturale italo-slovena costituita nel 1993 dai governi di Roma e di Lubiana abbia deciso di avviare il proprio lavoro dagli anni 80 dell'Ottocento, perché è quello il momento in cui si vengono sviluppando, fermando i movimenti nazionali all'interno della duplice monarchia e tra l'altro 1882 abbandonare alla politica estera italiana qualsiasi attenzione verso i Balcani, si orienta verso l'Africa, gli italiani di quelle terre, quindi si sono costretti a difendersi con le loro sole proprie forze contro quella che a loro avviso è la marea montante dello slavismo favorita dalla monarchia. Non è proprio così, il discorso è diverso, ma questa è la percezione che si hanno. Le percezioni contano ovviamente moltissimo poi nel definire le politiche, le strategie di lotta e i programmi culturali. Comunque, 1918, la monarchia asburgica crolla, si disintegra e con i trattati di Versailles, poi con il trattato di Rapallo del 1920, novembre del 20, e definitivamente nel 24 col patto di Roma e gli accordi di Nettuno, il confine orientale trova una sistemazione che durerà fino al 1941. Quindi incorporamento non solo di Gorizia, Trieste e l'Istria, ma anche di tutta la Val Canale, il Tarvisiano. Il confine viene portato nel 24 fino a Fiume compresa, il Monte Maggiore, e all'Italia poi alcune isole della zona del Carnaro e la città di Zara. Questo vuol dire che nello Stato italiano entrano come cittadini quasi 500.000 tra sloveni e croati, distribuiti alle spalle di Gorizia, di Trieste, nell'Istria interna prevalentemente e attorno a Fiume. Gli italiani sono dominanti nella fascia costiera, l'elemento slavo, senza precisare ogni volta sloveni e croati, prevalentemente all'interno, anche se poi ovviamente ci sono eccezioni. Mentre Zara, e questo spiega il perché sia stata data all'Italia, è una città al 99% italiana, mentre Spalato, Sebenico, Ragusa erano venute croatizzandosi rapidamente già nell'Ottocento e gli italiani erano rimasti una minoranza. L'elite, se volete, del denaro e della cultura, ma erano numericamente una sempre più esigua minoranza. Nel periodo tra il 19 e il 22 i governi liberali, almeno in via di principio, avevano dichiarato di voler rispettare i diritti delle minoranze cosiddette alloglotte. Pareva seguissero il consiglio di Salata, anche se di fatto le autorità militari nel periodo di occupazione avevano provveduto a cacciare quelli che erano considerati sovversivi, sobillatori, cioè gli esponenti dei movimenti nazionalisti sloveni e croati. Molti se ne erano andati perché erano funzionari della vecchia monarchia e preferiscono tornare nelle loro patrie e vanno quindi nel nuovo regno dei serbi, croati e sloveni, che solo nel 29 diventerà regno di Jugoslavia. E tenete presente anche questa denominazione che mostrava la complessità di questo Stato, ma poi invece prevarrà la corrente centralista serba, almeno all'inizio, di riconoscere qualche margine di autonomia alle tre nazionalità costitutive, cioè serbi, croati e sloveni, bosniaci, kosovari, macedoni sono considerati invece ininfluenti da questo punto di vista, e questo sarà uno dei fattori di debolezza di questo Stato che si sfascerà sotto l'attacco italo-tedesco nel 41 nel giro di pochi giorni. Ma comunque anche lì c'era un problema di convivenza di nazionalità diverse, slavi del sud, ma con tradizioni, storie, culture e religioni molto diversificate. E queste cose in qualche misura si riflettono anche sugli slavi che vivono nel Regno d'Italia. Va detto che i loro rappresentanti politici al Parlamento italiano faranno dichiarazioni di assoluto lealismo nei riguardi del Regno d'Italia, chiederanno solo il riconoscimento di quelli che sono i diritti nazionali minimi, le scuole, la cultura, le istituzioni economiche e sociali, il diritto di usare la propria lingua. E ancora, quando Mussolini andrà al potere, continueranno a ribadire la fedeltà allo Stato italiano, sono prevalentemente liberali e cattolici i rappresentanti in quel momento, ma ovviamente senza trovare alcuna rispondenza sulla sponda dei nuovi governi. Il discorso è abbastanza complesso, qui ovviamente sono costretto a semplificarlo, ma comunque va ricordato che il fascismo vara tutta una serie di leggi che non sono mirate solo contro gli slavi, contro tutte le minoranze ovviamente, che portano nel giro di pochi anni al smantellamento di tutte le strutture, le istituzioni economiche, sociali e culturali, alla proibizione dell'uso in pubblico, tanto più nelle scuole, nei limiti del possibile nel privato, e poi addirittura allo scontro con la, in particolare, diocesi di Gorizia e di Trieste, dove i vescovi o vengono costretti a dimissionarsi dopo lunga lotta, o vengono promossi per essere rimossi, come è il caso del vescovo di Trieste, perché si battevano per il diritto dei loro fedeli alloglotti a usare la lingua nelle parti in volgare della messa, nella catechesi, in tutte le altre parti appunto che di solito vedevano l'uso della lingua dei fedeli. E su questo c'è uno scontro estremamente duro e violento, che si intreccia poi con i contrasti tra Stato e Chiesa, per esempio nel 26 e nel 31. Queste cose vanno ricordate perché poi aiutano a capire anche alcuni aspetti della resistenza, così come per esempio già nel 34 il Partito Comunista Italiano, quello austriaco, quello sloveno, in un incontro decidono che quando sarà crollato il fascismo bisognerà rivedere tutto il problema del confine e ovviamente il pieno diritto all'uso delle lingue nazionali e delle culture proprie delle minoranze in tutta quest'area appunto della Venezia Giulia e anche in Slovenia, in Croazia e in Austria per quello che riguarda la Carinzia e la Stiria. È la prima volta in cui si parla espressamente dei problemi appunto delle minoranze in queste aree. Sono motivi che poi verranno ripresi proprio durante la resistenza. In questo periodo va anche tenuto presente che i rapporti tra Regno d'Italia e Regno di Jugoslavia non sono lineari, nel senso di uno scontro, di una contrapposizione costante. Tra 24 e 29 c'è un patto d'amicizia, non viene rinnovato nel 29, è il momento di maggiori tensioni, viene ripreso, per così dire, nella seconda metà degli anni 30, quando 37 accordi Ciano-Stojadinovic, c'è un riavvicinamento tra i due regni, Mussolini addirittura quando viene in visita nel 38 nella Venezia Giulia attraverso il confine viene accolto con tutti gli onori in Slovenia e parla delle nuove positive relazioni che si sono instaurate tra i due regni, l'Adriatico addirittura definito lago di pace, mentre sul resto dell'Europa si addensano le nubi della crisi cecoslovacca. E nello stesso tempo va anche detto che se il fascismo vara una politica così dura contro le minoranze, la stessa cosa fa anche il Regno di Jugoslavia con le sue minoranze, ungherese, tedesca, bulgara e anche con quelle italiane in Dalmazia. Di fatto i due governi protestano, però poi ognuno che vuole con le proprie minoranze. Le proteste sono puramente formali. E quindi, come hanno dimostrato anche studi di allievi di De Felice, il governo italiano di fatto a parole difende la comunità italiana in Dalmazia, poi lascia liberissima Belgrado di comportarsi come meglio crede, ma in cambio a sua volta Belgrado fa lo stesso col Regno d'Italia per le minoranze nella Venezia Giulia. Succede la crisi jugoslava. Il governo jugoslavo nel marzo ha firmato un accordo con le potenze dell'asse. Belgrado, la popolazione scende nelle piazze, rovescia il governo, chiama al trono il principe Pietro che era ancora minorenne, instaura un nuovo governo, reazione immediata tedesca e italiana, la Jugoslavia viene invasa, in 11 giorni questo stato scompare. Sloveni e croati gettano le armi o sparano sugli ufficiali serbi, accolgono come liberatori i tedeschi e gli italiani. La Croazia riesce a ottenere uno Stato nazionale indipendente sotto il regime Ustascia di Ante Pavelic, che però, per quanto fino allora sostenuto dagli italiani, entra immediatamente nell'orbita tedesca. La Slovenia, che si illudeva di diventare uno Stato indipendente sul modello della Slovacchia, sia pure nell'orbita italiana, viene divisa in due: la parte settentrionale annessa dal grande Terzo Reich, la parte meridionale, provincia di Lubiana, incorporata nel Regno d'Italia. Fino al 22 giugno del 41, data dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica, c'è qualche forma di resistenza, ma fatta dai monarchici fedeli al governo in esilio, prevalentemente serbi. La lotta incomincia con la discesa in campo dei comunisti dopo l'attacco all'Unione Sovietica. È una guerra sanguinosissima e feroce, le cui tappe vi risparmio, ma che vede contrapposti tutti contro tutti sulla base di odi etnici, croati contro serbi, cattolici contro ortodossi, cattolici liberali contro i comunisti, in cui italiani e tedeschi giocano la loro parte, ovviamente nell'aizzare le avversioni, le opposizioni. A un certo punto, e questi sono documenti proprio di parte italiana che lo confermano, che sono stati pubblicati di recente dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, in Slovenia il rapporto tra collaborazionisti con italiani e tedeschi e partigiani è di 4 a 1, cioè per ogni partigiano ci sono 4 sloveni che collaborano con i tedeschi e gli italiani nella paura dell'ascesa del comunismo e quindi il collaborazionismo su base anticomunista. Bella Garda, la Guardia Bianca o Domobranzi, difensori della patria. Comunque il fatto che fosse stata incorporata la provincia di Lubiana nel regno complica immediatamente le cose, perché la resistenza da lì lentamente ma costantemente si diffonde verso ovest, raggiunge la Venezia Giulia, raggiunge queste comunità slovene e croate che ovviamente in questa occasione incominciano a pensare alla loro redenzione e quindi vedono di buon occhio questo movimento partigiano che si sta diffondendo. La guerriglia incomincerà a lambire Gorizia già nell'autunno del 42 e alle spalle di Trieste un po' meno, ma all'interno dell'Istria e dietro a Fiume con una crescente insistenza. E comunque all'interno del movimento partigiano, chiamiamolo jugoslavo, ma sarebbe più corretto dire sloveno e croato, ovviamente si incomincia subito a parlare del problema del confine orientale. Ovviamente non minimamente nemmeno preso in considerazione l'idea di tornare ai confini del 1941 e si parla invece di una annessione integrale della Venezia Giulia. Del resto, quando si era disintegrato l'impero asburgico, reggimenti del vecchio impero dissoltosi avevano cambiato le mostrine, quelli sloveni e croati avevano cercato di impadronirsi di Gorizia, ne erano stati impediti solo dal rapido arrivo dell'esercito italiano, perché già allora i movimenti nazionali sloveni e croati rivendicavano tutta la Venezia Giulia, e qui va inserito un elemento culturale particolare che aiuta a capire le contrapposte posizioni. Mentre per l'Italia culturalmente è l'elemento città che gioca un ruolo fondamentale, non dimenticate Cattaneo, tra l'altro grande federalista, il quale aveva scritto che la città era l'elemento costitutivo della civiltà italiana, quello trainante e decisivo, e che quindi irradia la sua benefica influenza sulla campagna, e quindi la campagna segue il destino della città, nella cultura storico-geografica del mondo slavo era esattamente il contrario. Era un mondo dove era sempre prevalsa la campagna, la città era stata quasi sempre vista come un elemento spurio esterno, frutto della colonizzazione medievale, per esempio tedesca, nell'area danubiana, o di quella veneziana nella fascia costiera istriana e dalmata. Non era vero, ma questa era la percezione che se ne aveva o si voleva offrire, e quindi la città doveva seguire il destino della campagna. Per cui se la campagna era slava, la città poteva essere italiana anche al 100%, ma doveva seguirne il destino. Discorso inverso della parte italiana: la campagna poteva benissimo essere slava al 100%, ma se la città era italiana, il contado lo doveva seguire. Inoltre tenete presente che a Gorizia c'era una forte componente slovena anche in città, già da tempi remoti, così come a Trieste, che per le ragioni del suo sviluppo economico e commerciale ottocentesco aveva risucchiato, attirato dal contado, dall'Interland, molti sloveni, non mandati lì, come dicevano gli irredentisti, dall'Austria per snazionalizzarla, ma perché era la forza attraente di questa città capitalistica che richiamava in ricerca di migliaia, scoppio della prima guerra mondiale, 150.000 abitanti, più di quanti ne avesse in quel momento Lubiana. Questo vi spiega il perché venisse considerata una città che doveva diventare slovena, anche perché il suo retroterra carsico era tutto compattamente sloveno. Questo va detto per capire poi anche le ragioni, per così dire, storico-culturali dall'una e dall'altra parte accampate sul destino di questi territori. Inoltre, non dimenticate che nel 1941 l'Inghilterra, per attirare la Jugoslavia nella sua orbita, aveva promesso al regno di Jugoslavia tutta la Venezia Giulia, fino a Gorizia. Quindi, quando Tito nel 1945 rivendicherà queste terre, non sarà affatto per le brame del nazionalismo slavo-comunista, come ha detto una certa propaganda neonazionalista e neofascista dopo la guerra, ma si limitava a rivendicare quello che l'Inghilterra aveva promesso al governo monarchico, col quale Tito formalmente non rompe fino praticamente alla fine della guerra, anche se di fatto ormai aveva lui il controllo della Jugoslavia. E questo va tenuto presente. D'altro canto, già nell'autunno-inverno tra 1942 e 1943, alcune cellule comuniste friulane si erano date alla macchia e avevano incominciato a combattere insieme alle formazioni partigiane slovene sull'arco delle Alpi Giulie, nella zona di Cividale, alle spalle di Gorizia. Quindi si era incominciata a creare una collaborazione, una solidarietà internazionalista di sponda comunista, in cui si diceva da parte italiana che intanto bisognava cooperare e combattere contro il fascismo, poi a guerra finita ovviamente si sarebbe rimesso in discussione il problema dei confini. La situazione cambia col 43, 25 luglio, crollo del fascismo, il movimento partigiano che si è ormai ramificato e esteso nell'ambiente istriano e che quindi ha un buon controllo del territorio ed è in grado di captare e percepire la situazione, si rende conto che lo Stato italiano è sull'orlo del collasso e quando arriva l'8 settembre non è minimamente colto, impreparato, tutt'altro. Approfitta del vuoto che si crea istantaneamente e se i tedeschi intervengono altrettanto immediatamente, però non avendo molte forze disponibili, in quel momento occupano solo le grandi città e i punti nevralgici nel timore di sbarchi alleati che potevano essere benissimo attuati nel momento dello sfascio dell'esercito italiano. Quindi occupano Gorizia, occupano Trieste, Pola, Fiume, immediatamente, dopo un po' di tempo prenderanno anche le città dalmate della costa. In questo vuoto e in questa assenza anche tedesca si infilano le unità partigiane che occupano il territorio, l'Istria interna, per un breve periodo anche alcune città della costa, instaurano la giustizia popolare e si crea quella che è la prima ondata di violenze, degli infoibamenti. Attenzione perché il termine foiba, che si riferisce alle cavità carsiche dell'interno dell'Istria e del Carso dietro Gorizia e Trieste, è stato usato estensivamente. Non è che tutti vengono infoibati, gettati in queste foibe, molti muoiono, vengono ammazzati in modi diversi, ma il termine è passato estensivamente a indicare tutta questa ondata di violenze, quello più espressivo, più icastico. Ci sono fonti privati, ma è altrettanto indubitabile la stessa storiografia slovena post-jugoslava, cioè quella dopo il 91, l'indipendenza della Slovenia, lo ha riconosciuto, c'è un piano organico mirato a colpire chi rappresenta lo Stato italiano, quindi gli alti funzionari di polizia, civili, insegnanti, cioè tutto quello che in qualche modo poteva rappresentare lo Stato e la sua opera snazionalizzatrice. Vittime 5-600. Nello stesso tempo riunioni, di deliberazioni degli organi della resistenza jugoslava, proclama l'annessione dell'Istria e della Venezia Giulia alla nuova realtà jugoslava che si va costruendo. Non è una dichiarazione di principio, è una dichiarazione che viene considerata immediatamente operativa e quindi questo territorio viene considerato immediatamente parte della nuova Jugoslavia. Gli italiani possono tutt'al più collaborare nella lotta contro i tedeschi e contro i loro alleati fascisti della Repubblica Sociale Italiana di Salò, ma devono stare agli ordini, all'obbedienza del movimento partigiano. Questo in particolare nell'Istria centro-meridionale croata, dove era più forte. E questo poi spiega anche il perché dei diversi orientamenti e atteggiamenti della resistenza italiana. Teniamo presente che nella Venezia Giulia c'erano alcune roccaforti comuniste, veramente fortissime. I cantieri di Monfalcone, non è un caso che già il 9 settembre si costituisce una brigata proletaria che combatterà contro i tedeschi a Monfalcone e a Gorizia, poi ovviamente i tedeschi li spazzano via, ma diventeranno il nucleo di base delle formazioni partigiane comuniste garibaldine in quella regione. La seconda area è quella di Trieste, poi Pola e Fiume, cioè dove ci sono cantieri, installazioni navali di grande peso e quindi un forte e collaudato, vecchia tradizione già socialista dalla fine dell'Ottocento, di radicamento sociale. E sono operai comunisti che guardano con enorme simpatia e favore alla Jugoslavia e quindi disposti tranquillamente a collaborare. C'è poi una resistenza, invece, chiamiamola diversa, decisamente italiana, patriottica, nazionale, democratica, che è quella delle formazioni prevalentemente gielliste, azioniste e nel caso del Friuli, meno nella Venezia Giulia, cosiddette osovane. Osovane perché si chiamavano brigate Osoppo, richiamandosi all'eroica resistenza che questa piccola località vicino a Udine aveva opposto agli austriaci nel 1848, quindi richiamo esplicito al risorgimento, a una certa tradizione mazziniana risorgimentale che è piuttosto forte in Friuli. Le due componenti principali della resistenza in questa area sono appunto i garibaldini e gli osovani. Mentre comunisti garibaldini sono sin dall'inizio disposti a una stretta collaborazione con gli jugoslavi non solo in funzione antitedesca, ma anche in funzione di un futuro insieme, l'internazionalismo, gli osovani invece dispostissimi a collaborare e a combattere contro i tedeschi, ma non accettano assolutamente le rivendicazioni jugoslave su tutta la Venezia Giulia, sono disposti soltanto a ridiscutere il problema del confine orientale nel senso del riconoscimento di poterlo tutt'al più spostare leggermente a ovest, ma mai mettendo in discussione l'italianità della fascia costiera e di città come Pola e come Fiume o Zara. Quindi sono sin dall'inizio posizioni abbastanza diverse. Comunque fino all'estate del 44 la situazione resta abbastanza fluida. Anche perché i tedeschi intervengono, mettono a ferro e fuoco l'Istria, massacrano popolazioni civili, incendiano villaggi, rei solo di aver dovuto, volenti o nolenti, ospitare i partigiani jugoslavi, però riprendono il controllo del territorio. Nell'estate del 44, quando la situazione in Italia è di nuovo in movimento, lo sfondamento del fronte tedesco a Monte Cassino, la presa di Roma, poi di Firenze, quindi l'avanzata alleata nell'Italia centrale e lo sbarco anglo-americano in Normandia e poi in Provenza sembrano provocare ormai il collasso tedesco e l'imminente caduta del Terzo Reich, ritorna in primo piano il problema del confine orientale e dei rapporti tra le nazionalità in questi territori. E proprio il Partito Comunista con Togliatti manda un suo rappresentante, Vincenzo Bianco, a studiare la situazione al confine orientale e vedere come regolare i rapporti con i partigiani sloveni e croati. In questo momento Bianco non avrebbe carta bianca per decidere lui, dovrebbe solo osservare. In realtà, accolto dagli jugoslavi, viene conquistato dalla loro efficienza, dalla loro forza, dalla loro propaganda e ritiene che sia giusto quelli che esso rivendicano, cioè il pieno controllo della Venezia Giulia. Nello stesso periodo a Milano c'era stato un incontro tra il CLN dell'Alta Italia ed emissari appunto del movimento partigiano jugoslavo in cui si era anche discusso del confine orientale, ma lì si era detto soltanto che bisognava lottare insieme e che alla fine della guerra si sarebbe discusso il nuovo tracciato del confine e le sorti di questi territori, fermo restando anche da parte italiana il riconoscimento dei diritti delle minoranze slovene e croate nel Regno d'Italia. Quindi, mentre a Milano si decide una cosa e i rappresentanti jugoslavi, proprio perché in quel momento la situazione era ancora fluida, gli alleati parevano vittoriosi, i russi erano ancora relativamente lontani, erano disponibili a un compromesso, ma in termini molto vaghi, che comunque poteva essere reinterpretato come si voleva al momento propizio. In Venezia Giulia, con Bianco, i comunisti praticamente riconoscono in pieno le pretese e le rivendicazioni annessioniste. Togliatti, di fronte a questa situazione, poi nell'autunno deciderà di optare per la soluzione che gli proponeva Bianco, vale a dire ordina alle formazioni garibaldine di collaborare attivamente con gli jugoslavi nella lotta e di riconoscere sostanzialmente le loro rivendicazioni. Questo perché? Perché era chiaro che ormai dopo la guerra, chiaramente vinta dagli alleati, l'Italia sarebbe rimasta nell'orbita americana e inglese, mentre in Jugoslavia ormai era definitivamente vincente il movimento comunista. Quindi, quanto più fosse avanzato a ovest, tanto più sarebbe espansa anche la rivoluzione sociale comunista e quindi i territori della Venezia Giulia che fossero entrati a far parte della Jugoslavia avrebbero potuto vedere la felice realizzazione del sogno della rivoluzione socialista. Quindi bisognava collaborare attivamente. Questo significa che le formazioni garibaldine vengono messe alle dipendenze operative del nono corpus sloveno e più tardi anche della quarta armata dell'esercito popolare di liberazione jugoslava. Però va detto, a complicare ulteriormente il quadro, che all'interno del Partito Comunista Italiano frattura, perché ci sono comunisti italiani della nativi della zona, istriani, che conoscono molto bene il nazionalismo jugoslavo, che è altrettanto condannabile di quello italiano e che ha radici altrettanto remote, e che sanno che dietro l'internazionalismo di croati e sloveni comunisti c'è anche un fortissimo nazionalismo, si può tranquillamente parlare di nazionalcomunismo, e quindi rifiutano di mettersi alle dipendenze. Stranamente, sia Frausin, sia Gigante che altri capi minori ostili a questo assoggettamento finiscono tutti o in imboscate tedesche o catturati o uccisi in combattimenti con la polizia tedesca. E c'era il sospetto, oggi la quasi certezza, che le soffiate venissero proprio da parte jugoslava per togliere di mezzo questi ostacoli all'annessione e al controllo delle formazioni comuniste. Dopo quel momento, chiaramente, le formazioni garibaldine restano sotto un ferreo controllo e vengono mandate a combattere nel cuore della Slovenia. Quando sarà la corsa per Trieste, verranno spedite a liberare Lubiana e Zagabria per impedire che si potesse dire che degli italiani avevano liberato le città italiane. Questo doveva essere un onore soltanto jugoslavo. Però gli osovani ovviamente si oppongono a queste pretese e mire e non accettano minimamente di sottoporsi al controllo jugoslavo. E questo porta all'episodio di Malga Porzus, che è una malga sui 1000 metri dietro Cividale, dove nell'inverno era passata a svernare per sfuggire anche alle retate tedesche lo stato maggiore di una di queste formazioni. comandata da Bolla, che era un ufficiale dell'esercito regolare, De Gregori, lo zio del famoso cantautore, uno dei cui collaboratori, tra l'altro, era il fratello più giovane, minore, di Pasolini, che lo ricorderà anche in una commossa lirica dopo la guerra. Arriva un comando comunista italiano, con una scusa viene accolto senza troppi sospetti, dopodiché elimina completamente, massacra tutto lo stato maggiore della Osoppo e quei pochi che porta via poi li uccide. E proprio su ordine del nono corpus per eliminare queste opposizioni. Quindi si crea un ulteriore attrito e tensione all'interno non solo tra le due resistenze, ma all'interno della stessa resistenza italiana. La stessa cosa era accaduta anche a Trieste, dove il Partito Comunista era uscito dal CLN locale, triestino, per obbedire alle direttive di Togliatti. Quindi il CLN era costituito da tutti gli altri partiti, meno che quello comunista. La situazione era diversissima in Friuli, pochi chilometri di distanza, ma lì Osovani e Garibaldini addirittura hanno creato un comando unificato e combattevano insieme. Quindi veramente si tratta di fare una geografia regionale, addirittura subregionale della resistenza, perché sono situazioni di una diversità enorme. Si arriva al crollo dei tedeschi, gli jugoslavi si lanciano nella corsa alla conquista di questi territori. Arrivano per un giorno prima degli alleati a Trieste e a Gorizia. A Trieste, per la verità, c'era stata l'insurrezione del CLN già il 30 aprile, che avevano liberato la città meno un paio di capisaldi tedeschi che poi capitoleranno i neozelandesi dopo. Quando gli jugoslavi arrivano, non accettano questa liberazione. Il CLN è costretto praticamente a entrare in clandestinità a Trieste per sfuggire alle ricerche della polizia politica jugoslava. La cosa incredibile è che il podestà fascista di Trieste, Pagnini, viene temporaneamente fermato dagli jugoslavi, interrogato, 24 ore dopo rimesso in libertà. Lui che aveva rappresentato la Repubblica Sociale, mentre si dà la caccia al CLN perché è accusato di essere in realtà ancora più pericoloso, perché nazionalista, criptofascista e che rivendicava il suo antifascismo solo per opporsi alle mire jugoslave. A Gorizia accade lo stesso, due esponenti del CLN vengono addirittura arrestati, deportati e moriranno in prigionia pochi mesi dopo. Questa situazione dura per 40 giorni a Gorizia e a Trieste, poi in seguito a un accordo tra gli alleati Tito è costretto a ritirarsi, a mantenere solo il controllo dell'Istria e Menopola che serve agli alleati. A Fiume, appena arrivati gli jugoslavi, la prima cosa che fanno è quella di eliminare i capi del partito autonomista perché sempre antifascisti e quindi si oppongono alle mire jugoslave. La distinzione che gli jugoslavi fanno nei riguardi degli italiani è gli esponenti del vecchio fascismo e del vecchio Stato, ovviamente perseguitati e repressi. I cosiddetti regnicoli arrivati dopo il 18 vanno cacciati, gli italiani di origine slovena e croata assimilati, secondo loro snazionalizzati, devono essere rieducati e recuperati alla Jugoslavia. Gli italiani autoctoni del territorio sono considerati amici solo se accettano le pretese e le rivendicazioni jugoslave. Quelli che si oppongono, che difendono il diritto nazionale sul confine orientale, pur riconoscendo i diritti degli jugoslavi sull'Istria interna, per esempio, quelli sono dei nazionalisti, sono degli imperialisti, sono dei criptofascisti, quindi vanno perseguitati. E su queste basi, sostanzialmente, in quel periodo è la caccia agli italiani, gli altri infoibamenti, violenze che portano il numero delle vittime a circa 4-5 mila. Comunque non è che 1000 in più o 1000 in meno, dal punto di vista della condanna di questi eccidi e violenze, conti molto. Questa sostanzialmente è la situazione, una situazione che verrà poi modificandosi di poco nel periodo immediatamente successivo, ripeto col ripiegamento dietro la linea Morgan, fino a che col trattato di pace del 47 si sancisce l'assegnazione alla Jugoslavia di Zara, di Fiume, di tutta l'Istria centro-meridionale compresa Pola, Gorizia torna all'Italia. La situazione di Trieste è del territorio circostante rimane indefinita, si crea quella situazione di provvisorietà che va sotto il nome di territorio libero di Trieste, zona A col capoluogo agli anglo-americani, zona B agli jugoslavi. Poi il 54 con gli accordi di Londra porterà alla definitiva sanzione di questa realtà e quelli di Osimo del 75 la formalizzeranno definitivamente. Questo quindi sostanzialmente il quadro della resistenza nella Venezia Giulia, un quadro estremamente tormentato, complicato, di lacerazioni e scontri violentissimi all'interno delle due resistenze e tra le resistenze. E tenete presente che queste spaccature di tipo nazionale passano anche nel mondo jugoslavo, perché tra i perseguitati, gli infoibati, quelli che sono costretti ad andarsene, saranno anche sloveni e croati, non solo italiani. Quelli ritenuti a torto a ragione collaborazionisti o che si sapeva tepidi verso il nuovo regime o comunque decisamente contrari al regime comunista che si stava instaurando, nemici del popolo anche loro e quindi perseguitati, uccisi o costretti a fuggire tra 45 e 47 e anche in seguito. Quindi sul confine orientale c'è un intrecciarsi di motivazioni etniche, ideologiche e nazionali che non trova nessun riscontro né nella Val d'Aosta né nel Trentino Alto Adige, e questo rende particolarmente drammatica, tragica, è tormentata e ha reso anche molto difficile la ricomposizione in questi territori. Forse appena adesso, con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, si potrà dire che si sta aprendo una pagina nuova, ma comunque spiega le tensioni, le lacerazioni di questa regione ben oltre e ben dopo il 45, e spiega anche perché la regione a statuto speciale che era stata prevista già nella Costituzione entrerà in vigore appena nel 1963, cioè 15 anni dopo le altre regioni, in un contesto ormai di relativo disgelo della Guerra Fredda, di progressivo, non dico miglioramento, ma certo di attenuazione delle tensioni dei rapporti interstatali tra Italia e Jugoslavia. Grazie.